chiudi gli occhi e rilassa te stesso nel suono di destino. Chiudi gli occhi, deteriora le tue metamorfosi negli incubi di destino. I'm a Ah, e i o o.